Ciao, noi siamo donne femministe e lesbiche di Roma, ci siamo dati un appuntamento auto-organizzato per questa mattina, ci siamo viste alla metro Lucio Fest e adesso siamo partite in corteo dalla fermata Lucio Fest e stiamo bloccando via Tuscolana. E ci siamo dati questo appuntamento perché pensiamo che questa cosa che è successa, chiaramente stiamo parlando dello stupro avvenuto all'interno della caserma dei carabinieri del quadro, sia necessario comunque mettere la parola, insomma, dire qualche cosa noi compagne femministe e lesbiche romane. Quindi abbiamo dato questo appuntamento, siamo qui e invitiamo comunque tutte a raggiungerci. D'accordo, sappiamo che c'è un altro concentramento dalle parti di Piazza dei Tribuni nei pressi della stazione dove è avvenuto lo stupro di Stato e poi pensate di raggiungere anche voi la casa.